Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, giovedì 31 dicembre del 2015. Questa è la radio di chi se la sente, la voce dei senza voce. Potete contribuire a farla vivere. Uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56, 00185, Roma. Un altro modo, basta trovarlo consultando il sito della radio, ondarossa.info, sull'home page c'è Sostieni per la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema, l'ultimo dell'anno per quanto riguarda questo 2015. Tutte le informazioni sulla scaletta di quest'oggi, che prevede uno speciale con le cinquine, ossia i cinque film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2015, che vede ospiti vari colleghi e amici, trovate la scaletta e le informazioni sulla trasmissione sul sito della radio alla voce Trasmissioni Visionari e sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Allora, cominciamo con i nostri collegamenti. Prima delle cinquine, però, un evento che riguarda l'agenda della settimana cinematografica romana, che riguarda una proiezione prevista per mercoledì della settimana prossima, quindi gennaio del 2016, al Cine Club des Tours. Ne parliamo con Daniele Lupi. Daniele, ben ritrovato. Ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori di Visionari. Allora, un documentario in questo caso che guarda caso in un periodo di inquinamento da polveri sottile nelle grandi città, non solo italiane, parla di biciclette e di automobili. Sì, ma non sappiamo se essere contenti di questa poi coincidenza, no? Quanto abbiamo fatto è stato già proiettato, Bikes vs Cars al Le Tour, è stato proiettato mi sembra il 5 dicembre, sì, sabato 5 dicembre, abbiamo fatto una proiezione e ovviamente è stata tutta esaurita e quindi a grande richiesta abbiamo fissato un'altra data e allora ancora non c'era questo problema delle polveri sottili, blocchi, lo smog delle grandi città, e non c'era, perlomeno non c'era a livello mediatico, ovviamente esisteva la qualità dell'aria quella che è a Roma, nelle altre grandi città, mediocre costantemente, e oggi è ancora più di attualità e ci fa piacere che si incomincino ad affrontare anche le possibili, a discutere anche a livello dei media mainstream, voglio dire, delle possibili alternative per risolvere questo problema, e quindi l'alternativa alla mobilità urbana. Bikes vs Cars è arrivato nel The Tour on the Road Film Festival, mi riferisco alla proiezione di dicembre, perché ha vinto il gran premio al miglior documentario internazionale all'ultima edizione del Cinema Ambiente di Torino, e è arrivato a noi tramite la sua distribuzione italiana che è DocIT, che in realtà lo promuove a livello europeo insieme a altre distribuzioni di documentari attraverso questo network di distributori di documentari europei che si chiama Moving Docs. L'abbiamo pensato subito di organizzare la proiezione al The Tour, anche perché uno dei nostri media partner del festival era il Biciclettaro, no? Il negozio di biciclette che sta a Via Urbana, proprio vicino al The Tour, e quindi è venuto del tutto spontaneo organizzarla insieme a loro, insieme a Salve i Ciclisti, che è questo gruppo di ciclisti che porta avanti costantemente iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esistenza e la sopravvivenza, necessaria sopravvivenza del ciclista nel traffico urbano. Bikes vs Cars è di Frederick Gerten, un regista svedese, anche se il documentario è una produzione americana, e parla proprio di questo e lo prende, diciamo, dal punto di vista di come l'industria automobilistica in varie città del mondo, e sono analizzate molto bene questi contesti, ci racconta di come l'industria automobilistica, dicevo, ha sabotato letteralmente i trasporti pubblici collettivi a favore della macchina, e quindi le lobby automobilistiche e quelle delle costruzioni, delle infrastrutture hanno esercitato il loro potere e la loro forza nei contesti metropolitani più grandi, ma parliamo insomma di Los Angeles, San Paolo, mi sembra sono due città, sicuramente ci sono nel film, ma ce ne sono anche altri di esempi, e hanno esercitato la loro il loro potere lobbistico a favore della mobilità privata, individuale, con la macchina e quindi il consumo di petrolio e tutto il resto che ne consegue, a discapito di tutti gli altri mezzi collettivi, pubblici, ma anche individuali, come appunto la bicicletta. Quindi la narrazione di questa storia passata pregressa si intreccia con quella che invece è la speranza futura di poter girare sulle due ruote anche nelle più grandi metropoli del mondo. Bene, ricordiamo allora l'appuntamento, Daniele, che è per mercoledì prossimo. Mercoledì alle 20:30, il detour attualmente è chiuso, siamo nelle nostre vacanze natalizie e riapriremo il mercoledì pomeriggio con del cinema per i bambini, organizzeremo anche una tombola per i più piccoli e la sera invece alle 20:30 ci sarà la proiezione e volevo anche ricordare che dopo la proiezione sarà proprio il gruppo Salva Ciclisti ad incontrare il pubblico per un eventuale dibattito, uno scambio di idee su quello che vedremo, su quello che verrà proiettato. Mercoledì 6 gennaio, quindi. Mercoledì 6 gennaio 2016. Benissimo, un abbraccio e visto che ci siamo, auguri di buon anno. Ci siamo, auguri di rito anche a te e a tutti gli ascoltatori della Onda Rossa. Buona serata, divertitevi, buon inizio di 2016. Ciao Daniele. Ciao Federico, grazie, ciao, ciao. Daniele Lupi del Cineclub Detour. A questo punto diamo inizio al Festival delle Cinquine per quanto riguarda i film usciti in sala nel 2015. Ne parliamo, intanto avevamo fatto un anticipo martedì con Fabio Ferzetti che oggi non sarebbe potuto essere con noi e abbiamo però in collegamento Emanuela Martini. Allora, ciao intanto, ben ritrovata a questo appuntamento. Ciao, buongiorno, buon anno a tutti. Auguri. Allora Emanuela, un breve bilancio dell'anno e poi i tuoi cinque. Ma non è stato così male l'anno. Io mi sono trovata a fare la lista per una cosa più lunga, cioè 10, e in realtà me ne erano venuti fuori almeno 20. Poi sono stati ridotti a 10, adesso ridotti a 5 sono meno ancora, perché poi ci sono una serie di film che sfuggono, che uno se li dimentica, però complessivamente cioè come qualità insomma ci sono stati dei bei film quest'anno e poi molto variati anche. Bene, bene. Senti, allora quali sono le tue scelte? Facendo delle rinunce enormi, li vuoi in ordine di preferenza, vero? Sì, meglio, sì. Allora, se sono in ordine di preferenza, sì. Sì, allora sì, primo Vizio di forma di Paul Thomas Anderson, che secondo me è assolutamente il film dell'anno, una rilettura del noir magnifica e poi giocata in questa maniera nostalgica in cui veramente mette insieme la modernità del suo cinema con il noir, non tanto il noir classico quanto con la rilettura del noir fatta dal grande cinema americano anni 70. Chiaro che c'ha delle affinità con il lungo addio di Altman enormi, veramente sì. Gran film. Sì, sì, sì, sì, secondo metterei Turner di Mike Lee, che è un film del quale molti si sono scordati. Non Fabio Ferzetti che l'ha citato. Perché? Vabbè, perché a parte l'interpretazione di Timothy Spall straordinaria, e veramente va dentro Turner, anche proprio dal punto di vista materico, oltre che la vita di quegli anni, eccetera. Terzo, Mia madre di Nanni Moretti, che per me è un gran bel film di Nanni Moretti, a parte la commozione, ma è un gran bel film proprio anche perché se ne tiene a distanza, oltre a essersi scavato un personaggio straordinario, anti-morettiano in assoluto. Quarto, Mad Max Fury Road di George Miller. L'unica maniera possibile di fare Mad Max oggi senza fare tutto un film che gioca solo sugli effetti speciali, eccetto che questo gioca sugli effetti speciali, però George Miller, l'inventore di Mad Max, ha trovato la strada giusta, completamente post tutto praticamente. E quinto, Eisenstein in Messico di Peter Greenaway, perché è un gran bel ritorno di Peter Greenaway, che diciamo che negli ultimi 10 anni quasi era molto noioso, molto saccente, molto rivoltato sempre su se stesso, e questo invece è un film in cui si molla, si libera anche lui, secondo me, ed è, l'ho trovato enormemente divertente. Bene. Oltre che ovviamente coltissimo come sempre lui, sì, Eisenstein, sì, insomma, sì, la raffigurazione di Eisenstein è straordinaria. Bene. Tra l'altro nella tua cinquina c'è l'italiano Nanni Moretti, Fabio Ferzetti sì. Ne aveva detti cinque, e siccome nella sua cinquina non c'erano gli italiani, io ti sento, tu mi senti? Sì, adesso ti sento. Ok, dicevo, non essendoci italiani nella sua cinquina, ne ha poi menzionati due che sono proprio mia madre e Non essere cattivo, quindi ex aequo. Posso fare una menzione? Vai! Visto che... Allora, guarda, ti faccio una menzione di due film abbastanza di genere a pari merito, Whiplash di Damien Chazelle, che è travolgente, e Le streghe sono tornate di Alex de la Iglesia. Anche questo è un gran ritorno di Della Iglesia all'horror, oltre che più spiritosissimo. Va bene. Molto femminista, tra l'altro. Bene, Emanuela, è stato un piacere, come ogni volta. Ci sentiamo presto a questo punto. Ci sentiamo presto. Magari per la trasmissione Tracce di Cinema, quella sulle colonne sonore dei film, con Ottavia Monicelli. E un augurio di buon anno anche a te. A presto. Buon anno a tutti. A presto. Ciao, Emanuela. Ciao. Questo è Emanuela Martini. Bene, dopo Emanuela Martini è la volta di Pedro Armocida. Ben ritrovato su queste frequenze, Pedro. Ciao, buongiorno a tutti. Come va? Bene. La linea sarà un po' difficoltosa, sono in mezzo alle campagne toscane. Però adesso ti sentiamo bene. Allora Pedro, un breve bilancio di questa stagione prima di passare alle cinquine. Diciamo, quando si fanno queste top ten, che io non amo molto, però poi alla fine mi diverto anch'io, ho avuto difficoltà per altre richieste a fare una top 10, no? I migliori 10, perché ce ne avevo almeno 15-20, sì. E mi sono un po' sorpreso a pensare che ci potessero essere addirittura 20 film in un anno da ricordare, però è successo, e quindi credo che sia stata alla fine una buona annata. Alcuni però non sono usciti ancora in sala e io non li ho inseriti poi neanche in questa top 5, me li tengo per il 2016. Bene. Senti, allora passiamo ai tuoi preferiti. Come avviene? Dal quinto? Non so se hai fatto una gradazione, perché... sì, alla fine sì. Ah, ok, allora come vuoi, come preferisci. Sì, va bene, allora iniziamo col quinto, che è American Sniper, Clint Eastwood. Sì. Commento? Vai, come no? Bueno, sì, perché non so bene come. Comunque, qui, appunto, top 5, quinto film, American Sniper, che poi avrà qualcosa in comune, secondo me, paradossalmente, col primo che dirò più avanti. È un film straordinario, al di là, diciamo, del libro di provenienza, delle polemiche su film di destra, film fascista o quant'altro. Naturalmente il libro e chi l'ha scritto pensa in maniera molto diversa anche dallo stesso Clint Eastwood. Comunque, dico, a parte la provenienza e la scelta di prendere quel libro, il film invece si è dimostrato un'altra cosa, e naturalmente poi in ultima analisi ha mostrato l'assurdità della guerra, di tutte le guerre, in uno scontro frontale poi tra, in qualche modo, l'America e il suo doppio, che nel film è ben rappresentato dall'altro cecchino, oltre a Bradley Cooper. Sì. Vado avanti? Come no? Sì. Quarto film, ho inserito un italiano, per fortuna visto recentemente, che non è mia madre, di Nanni Moretti, che avrei potuto anche inserire, però non ho inserito, è Bella e perduta. Pietro Marcello ha fatto un film che mi ha molto sorpreso, sì. Un film appunto sorprendente, diversamente, ecco perché parlavo di Moretti, che è sicuramente uno dei film dell'anno, ma poi quando bisogna decidere non è sorprendente come questo film, che non ha niente a vedere neanche col cinema documentario, è un film totalmente in qualche modo di finzione, sì. legato però naturalmente in maniera imprescindibile alla realtà, che mostra, al di là della reggia di Carditello che cadeva a pezzi, mostra però anche come la bruttezza, nel senso anche legata alla malavita che c'è in Italia, non solo in quell'area, poi diciamo entri nelle vite delle persone in maniera molto pesante. Mm-hmm. E Pietro Marcello sceglie un racconto quasi onirico per raccontare invece una realtà che è stringente ed è molto forte. Sì, e sì, quindi sì. Fa immaginare altre cose, un cinema assolutamente da vedere. E terzo film, torniamo in America, che è un po' preponderante in questa top 5, ma vedremo fare di meglio prossimamente. È Vizio di forma, Paul Thomas Anderson. Come Emanuela, diciamo, Martini, anche lei lo ha citato. Bene. E anche questo mi ha molto sorpreso, perché è spiazzante, mette in scena anche qui un libro, un romanzo, ma lo fa in una maniera assolutamente libera, anche con uno sguardo completamente anarchico anche rispetto al testo, non dà tanti appigli narrativi allo spettatore, lo spiazza, lo porta da una parte all'altra, ma sicuramente diciamo lo porta all'interno del grande cinema, e anche questo uno dei film dell'anno. Sì. Al secondo posto ho scelto, e poi adesso poi riguardare tutta questa classifica, anche questo film Timbuktu di Sissako, racconta anche questo, è anche questo un film in qualche modo assolutamente sulla guerra, è un film con uno sguardo ironico contro qualsiasi fondamentalismo, sembra quasi dire che alla fine tutti gli estremismi, quando portati forse a conseguenze estreme, hanno anche un lato comico un po' ridicolo, direi io. E anche Sissako mette in scena un'ironia sul mondo islamico fondamentalista, ma lo fa in maniera sicuramente diretta, ma non in quel modo così esplicito che può creare divisioni anche forti quando lo si vede, cioè ti porta a far vedere come appunto portare il fondamentalismo islamico in una popolazione che se ne sarebbe ben lontana e ben contenta da sola senza avere questo tipo di imposizione, e lo fa in maniera appunto con una costruzione narrativa di montaggio alternato di varie vicende molto bella, lo fa senza diciamo mettersi in alto su una cattedra e dire come devono essere le cose, ma fa arrivare tutti gli spettatori a una verità che è quella appunto della libertà di ognuno di esprimersi come vorrebbe, e che purtroppo gli è negata. Adesso voglio dire, anche Bella e Perduta parla di qualche modo di camorra, e le libertà personali in tutte queste situazioni sono molto limitate, anche se noi ci crediamo, no? In un paese assolutamente libero da tutto, e non è vero. Tra l'altro su Timbuktu ti ritrovi con Fabio Ferzetti, anche lui lo ha menzionato. Sono contento, tutti i colleghi che stimo, loro anche in maniera particolare. E al primo posto una delle ultime visioni, per me appunto una delle visioni dell'anno, è Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg. Mm-hmm. Che io ho perso purtroppo. Ho perso alcuni degli altri film molto molto votati ultimamente, e ci riprometteremo mi riprometto anch'io di riprendere queste visioni. E comunque Spielberg è in sala, quindi prima che arriva Zalone, ma arriva domani, però prima che si prenda tutto lo stivale, ci sarà ancora un po' di occasioni per vedere Spielberg. E anche qui adesso appunto questi cinque film, Il Ponte delle Spie, pensandoci un po', è un po' un alter ego di in qualche modo di American Sniper, perché qui viene ritratto il doppio degli statunitensi e dei sovietici ai tempi della guerra fredda, quindi USA e URSS, attraverso la vicenda di varie spie da una parte e dall'altra, però anche qui c'è uno specchio della, dell'America, dei comportamenti anche della società americana, che curiosamente poi si rispecchiano nei comportamenti della società sovietica quando si tratta di spie, di apparati militari, di spionaggio, di cose diciamo grosse che attengono allo Stato. Si comportano poi i paesi in maniera molto, molto simile, e quindi mi è piaciuto molto. Il film inizia con una bella sequenza che non ti anticipo, tu che non l'hai vista, però di una spia che si fa un autoritratto allo specchio, quindi c'è un gioco di specchi che poi rivedremo per tutto il film. E questo avvocato americano che cerca di mediare per riuscire a liberare la sua spia americana, trova poi, non dico un'amicizia in quest'altra spia sovietica, però riconosce qualcosa che è molto simile anche in queste due nazioni, in un tempo di guerra fredda che oggi come oggi non sappiamo neanche più bene come era fatto, ma che il film evoca in maniera impressionante anche proprio sulla linea del muro di Berlino, che divideva neanche troppo metaforicamente l'Occidente dall'Oriente. Bene Pedro, è stato un piacere, e magari ci aggiorniamo per le prossime edizioni a questo punto, visto che è stato il tuo esordio quest'anno. Ti ringrazio molto, no? mi ha fatto molto piacere, adesso seguirò anche i consigli di visione degli altri. Bene, un abbraccio, a presto Pedro. A voi, buon pomeriggio, ciao. Ciao. Dopo Pedro Armocida è la volta di Mario Sesti, ben ritrovato Mario. Ben ritrovati a voi, come ogni anno, un appuntamento immancabile. Sì, è un piacere, è sempre più numerosi tra l'altro i colleghi ed amici che partecipano. Ah, sì, ma quanti siamo a questo punto? Guarda, in questa puntata 12... poi escluso me, che insomma comunque mi esprimerò, e la prossima puntata, che è il 7 gennaio, dovrebbero essere 5-6, altri 5-6, quindi abbastanza corposo il accidenti, quindi una ventina in tutto. Eh sì, quasi una ventina di colleghi ed amici critici cinematografici. Io chiedo in genere anche un parere sull'annata 2015 rispetto al cinema, Mario, che mi dici? Ma dunque, da una parte ho fatto un po' fatica a mettere insieme quelli che dovrebbero essere i film che mi hanno lasciato diciamo più cicatrici, ho fatto dall'altra, però una volta che ho cercato di fare un sorvolo generale, devo dire che per esempio rispetto al cinema italiano, nonostante tutte le cassandre di incassi eccetera, per esempio credo che sia la prima volta che ne segnalo due, che ne segnalerò due, no? Sì. Per motivi poi che mi sembrano più interessanti di quelli tradizionali in cui uno magari mette un film e l'ha colpito particolarmente. In generale, diciamo, trovo che, come posso dire, l'egemonia sull'immaginario cinematografico internazionale di Marvel, Disney, Pixar sia sempre di più opprimente, ecco. Cioè l'idea di un prodotto soprattutto mainstream riguardo al cinema americano molto omogeneizzato, molto omologato, molto uguale a se stesso, che spesso contiene il disperato tentativo di cercare di prendere tutta la famiglia, dia luogo a un cinema mainstream americano tra i più deludenti degli ultimi decenni, ma questo non riguarda solamente quest'anno. Ma ecco, è dentro, se vuoi, direttamente nel vivo. Certo. La più grande obiezione a questo discorso che sto facendo è uno dei film che secondo me sarà uno dei più belli dell'anno, cioè Mad Max. Mad Max secondo me è finalmente quel tipo di cinema in cui trovi innanzitutto la creatività della fantasia, l'idea di raccontare una storia con un intreccio, una location, un set, un immaginario tecnologico, una set decoration e naturalmente anche una violenza simbolica, no? Una storia alla fine in cui c'è la rappresentazione più violenta che io ricordi della lotta tra i sessi, tra il maschile e il femminile, no? Uh-huh. Cioè, all'inizio del mondo poi quello fosse, diciamo così, una delle storie più fondamentali, più primordiali, più irraccontabili, no? Cioè della grande competizione che c'è all'inizio di tutto tra i due sessi. E quello lì, per esempio, è finalmente un film che scardina, no? Non c'è, diciamo così, la fiaba, diciamo così, di Lucas, Spielberg, che poi non c'è quasi più completamente, o per arrivare o al mitore digitale della Pixar, che a suo modo poi è forse una delle grandissime poche novità, diciamo così, di questo immaginario. Lì c'è qualcosa di così forte, di così tossico, di così, no? Cioè l'energia, la violenza anche dell'immaginazione, la violenza del sesso, ecco, no? Tutto sì. Ciò che una volta faceva parte del cinema e che ci dava delle cose che non ci davano i romanzi, che non ci dava la televisione, che non ci dava la realtà in generale, no? Sì, sì, quello sì, è un film che trovo pieno di questa cosa che una volta era un privilegio del grande schermo. Poi su una questo cosa analoga, su questo Mario anche si è espressa anche Emanuela Martini su Mad Max, l'ha inserito nei suoi cinque. Guarda, io difatti non a caso stimo tantissimo Manuela da tempi non sospetti, da prima che diventasse guida di uno dei più bei festival italiani come critico, e siamo spesso stati in sintonia, no? Mm-hmm. Lì c'è qualcosa, no, che un po' sfugge proprio, come dire, adesso non voglio essere, no, proprio c'è, cioè, qualcosa che ha a quel fare con qualcosa di minaccioso, di, no? Quella roba lì che non può essere reggimentata da nessuna produzione, da nessuna legge, no? Che spesso il cinema riusciva a dare voce in maniera più forte, più plastica, anche più popolare di quanto succedesse agli altri linguaggi. Lì c'è qualcosa, per l'appunto, che non troveremo in nessuno di questi film sui supereroi, che insomma, che trovo molto noiosi e che poi vanno sempre peggio probabilmente, e che credo siano diventati l'unico macro genere che dia un minimo di speranza per le grandi produzioni, anche se, come dicono Spielberg e Lucas, i rovesci finanziari sono così profondi nei confronti di questo tipo di cinema che il cinema rischia di implodere, proprio perché le concentrazioni di denaro per produrli sono sempre più imponenti e i rischi finanziari sono per questo sempre più letali. Sì, però adesso sì, non sì, voglio sì. fare un discorso così, diciamo così, così serio da critico. Il bello di questa cosa che fai è anche un po' da tifoso, no? Che uno mette le crocette, sì, esatto, delle cose che gli sono piaciute, da appassionato. Sì, sì, sì, sì, sì. E un film che per certi versi è simile a questa cosa qui e che mi ha molto colpito, che ha avuto molta meno fortuna, anche se poi ha vinto credo alla settimana della critica, se non ricordo male, di Cannes 2 anni fa, o alla Cannes, ma forse la Cannes, è White God, Sinfonia per Hagen. Ah. Che è un film che io ho trovato un film, come mi capita sempre, penso capisci sempre raramente, che non somiglia a nient'altro fatto prima. C'è un film che ha con protagonista un cane, è un sì. cane bravissimo, io penso che possa essere etichettato come il Marlon Brando dei cani. No? Sai che in Russia si dice quell'attore è un cane per dire quanto è bravo, al contrario di quanto sì, accade sì, da, sì, sì. da noi, no? Perché si dice è naturale come un cane, ecco, questo è un film. E ha anche lì un inizio e una fine che hanno questa forza travolgente di descrivere qualcosa che non è stato mai raccontato, non è stato mai pensato. Una città completamente invasa da una mandria di cani randaggi che gettano uno scompiglio in una capitale europea, no? È una cosa che, per l'appunto, solo a immaginarla, no? ci vuole un certo coraggio. Anche lì c'è un discorso naturalmente poi sul potere, sui rapporti, sulla violenza, ecco, sono due film che mettere insieme, anche perché sono due matrici diverse. Max comunque è generato dal grande mainstream del cinema internazionale, mentre White God è fatto da un regista indipendente ungherese che addirittura cita il più elitario dei registi, cioè Miklos Jangchow. Però sì, sono due film che mi hanno fatto uscire così, diciamo così, dal coro buio del conformismo delle immagini da cui siamo immaginati, da cui siamo circondati. Sì, sì, sì, sì. Poi appunto ci metterei due film italiani che metto non solo perché mi sono piaciuti molto, forse ci sono anche altri film italiani che mi sono, però sono due film che in qualche maniera mi sembra abbiano la nobiltà di riportarci a un tono, a un modo, a una lingua, a uno stile di fare cinema che era quello del grande cinema italiano del dopoguerra. Uno è Il racconto dei racconti di Garrone, no? Sono abbastanza convinto che se Pasolini fosse vivo avrebbe dato una pacca sulle spalle a Matteo Garrone per come ha saputo fare cinema con i paesaggi, con i volti e con la letteratura, no? Un po' come faceva lui per l'appunto con Decameron, con Il racconto dei cantanti, con Il cielo delle mille e una notte. E l'altro è Dobbiamo parlare di Rubini, che è un regista, un autore al quale io personalmente sono molto legato, ci ho lavorato anche insieme per fare delle cose a teatro, ma non è questo naturalmente. Anche lì, grazie all'aiuto di questo scrittore comico straordinario che si chiama Diego De Silva, cioè è un film, anche lì mi sono immaginato che forse Monicelli e Germi, dopo averli visto, avrebbero dato una pacca sulle spalle a Sergio, perché c'è questa idea di parlare in maniera molto divertente di cose molto disperate, del nostro vissuto, della povertà, del nostro presente, dell'incapacità di stabilire dei legami affettivi solidi, della difficoltà di parlare, insomma, tutte cose che riguardano i nostri costumi, la nostra società, però in maniera molto divertente, il che non significa che il messaggio non sia per certi versi molto severo, molto disperato. Mm-hmm. Ultimo, ci metto un film che anche questo mi ha colpito tanto, che si chiama Whiplash, che ricorderete era tra le candidature nomination, se non sbaglio, però la ragione per cui lo metto è perché è un film che parla del jazz. Io ho sempre pensato che tra il cinema e il jazz ci sia qualcosa di molto vicino, anche se poi faccio fatica a immaginare qualcosa che abbia prodotto un grande cinema, un grande film, però e ci ho un po' pensato, ci sono due cose che secondo me sono tipiche sia del jazz sia del cinema. E innanzitutto la capacità di liberare energia fisica, no? Sì. Sia nel jazz sia nel cinema, a un certo punto il nostro corpo legge film, così come il nostro corpo a un certo punto viene trascinato da un flusso pazzesco di suoni, come accade appunto nel grande jazz, no? Quindi l'energia fisica, lo stordimento, anche qui, quindi qualcosa che ha a che fare per certi versi con l'atto dell'azione, della violenza, no? È un film piuttosto violento quello, nel senso proprio fisico, di far vedere il gesto fisico della violenza, di come le persone subiscono la violenza, perché come ricorderai la storia fondamentalmente di un apprendista batterista che viene letteralmente plagiato dal suo insegnante fino al sangue. Sì, no, però, infatti molto l'ho trovato, la cosa che mi ha più anche infastidito è stata proprio questo mettere l'insegnante molto sopra le righe. Sì, secondo me c'è un discorso anche su uno, perché in realtà secondo me era anche un film sull'ossessione del talento, che è tipico della cultura americana, no? Sì. Il talento è la cosa più importante, cioè in nome del talento si può compiere qualsiasi cosa. E come ricorderai, era quello non era semplicemente un sadico, era uno che, perfezionista anche appunto, era un esatto, quindi lo faceva, no? Però al di là dei significati della storia, che comunque mi sembrava interessanti, al di là del fatto che sia stato in uscita poi fatto con mezzi molto semplici, erano suoni e recitazione, ecco, anche quello, c'è un'idea di cinema molto essenziale, no? I set, gli interni, era un cinema privo di grandissime attrazioni visive o di scrittura, eccetera, era semplicemente fatto di personaggi e di musica, no? E poi c'erano anche lì dei momenti che mi sembrano tipici del cinema, in questo credo che il cinema già si sia, c'è la capacità di passare, di alternare momenti di grande intensità fisica a momenti di grande tenerezza, il blues, no? Di introversione, no? Di empatia, di dolcezza, no? e sono due cose che sia il cinema che il jazz praticano con straordinaria disinvoltura, come se gli venisse naturale passare dall'uno all'altro, no? E a me sembra che in quel film ci siano queste due cose insieme, no? Questa la vita come espressione anche di sé, anche corporea, anche fisica, anche violenta, anche un po' narcisistica, no? E anche un po' l'idea invece che a un certo punto a volte uno ha bisogno di ritornare presso se stesso, no? Nella questa atmosfera blu, no? E il cinema più di qualsiasi altra cosa, un po' come accade al blues, è capace di far provare l'empatia tra chi racconta questo momento di grande anche solitudine, no? Nel senso bello, no? Che a volte è bello stare da soli con se stessi, leccarsi un po' le ferite, provare un po' di tristezza, ma sentire questo sentimento molto profondo, no? E la contraddizione è che sia il cinema che il jazz fanno provare questa cosa così personale a tantissime altre persone, quindi questo momento di empatia, no? Quindi quel film lì credo ci ha fatto ragionare tanto, ci ho tanto pensato, perché al di là del fatto che fosse scritto, diretto bene, c'erano anche delle cose che mi hanno lavorato, e questo ha fatto sì che insomma lo inserissi all'interno di questa cinquina. Sempre Emanuela Martini, Oltre i Cinque, lo ha menzionato insieme alle streghe, però Whiplash lo ha messo, e c'è anche una godibilissima, una bella, scusami, qua la streghe di Dele Iglesias, esatto. Guarda, stava proprio sotto, pensa che l'altra sera ho invitato una decina di amici per farglielo vedere, che purtroppo è un film che non ha circolato tantissimo, ma anche quello, ecco, diciamo, sta proprio a ridosso, a pochi punti da questa cinquina. Sì, assolutamente. Sì. E per Whiplash volevo anche citare la versione nel finale di Caravan, veramente molto bella e godibile. Bellissima, poi per chi ama quella musica lì neanche lo dico, è stato un momento di puro piacere, di puro godimento, no? Sì. Però cioè, non so se sono riuscito a spiegarmi, no? Ma sì, questa capacità del cinema di parlare dello stordimento, no? Una cosa che riguarda anche gente che va, non so, in discoteca, no? Non semplicemente, no? E allo stesso tempo invece una cosa che è esattamente l'opposto, no? Quando sei da solo con te stesso, e questa cosa di empatia tra una cosa così profonda che ti riguarda, così personale, però riesci a condividerla con un numero così largo di persone. Mm-hmm. Secondo me quel film un pochino parla di, non si capisce quel film, se non si capisce il fascino che quel tipo di musica lì può esercitare, per cui uno poi può finire addirittura in quelle condizioni, diciamo. Mm-hmm. E siamo al quinto. No, in realtà credo di averne 25, no. Scusi. Due. Perché sono, no, White God, Mad Max, Racconto dei racconti, giusto? Ah no, anche Rubini, è vero, hai detto Rubini, è vero, non l'avevo segnato, Rubini, esatto, siamo a 5, perfetto, sono i tuoi 5. E quindi niente, vivrò con trepidazione questo momento fino, diciamo così, alla giornata finale. Mi sembra di capire che sarà subito dopo l'Epifania. Eh sì, il prossimo, il giovedì 7, quali saranno i 5, il responso finale. Mario, un abbraccio, auguri, buon 2016. Ciao. A te e a tutti quanti, a presto. Ciao. Questo Mario Sesti per il nostro gioco delle cinquine, i film del 2015, tra quelli usciti in sala, i 5 preferiti tra i colleghi ed amici critici cinematografici. Dopo Mario Sesti è la volta di Michela Greco, ben ritrovata su queste frequenze, Michela. Ciao, tutto bene? Tutto bene, grazie. Poi ci faremo gli auguri. Allora, intanto ti chiedo, come faccio con tutti, un tuo parere su questo 2015 al cinema. Guarda, a me è sembrato una buona annata. Ho visto delle belle sorprese italiane, sorprese proprio nel senso di piccoli film. veramente nuovi, originali, di cui magari sappiamo tanto, parliamo dopo, e anche delle belle conferme internazionali, sì, che sì, si aggiungono alla cinquina che io ho scelto, che invece appunto non è fatta di conferme, ma di opere secondo me molto sorprendenti da molti punti di vista linguistico e formale. Bene, vogliamo essere sorpresi, infatti. Sì, quella è la cosa che mi aspetto sempre io quando vado al cinema, che spero di trovare, sì, quando, esatto, vado al cinema. Io penso che cerco di sapere il meno possibile di una trama, per esempio, quando vado a vedere un film. Esatto. Vuoi che ti sparo la cinquina? E spariamo questa cinquina. Spariamo questa cinquina. Io te la dico, te ne dico cinque, ho fatto una grandissima fatica a selezionarne solo cinque. Questo mi dice che è stata una buona annata, sì, perché ce n'erano tanti altri molto belli. E però sono cinque che non ti dico in ordine, insomma, non so come li vuoi, dal primo al quinto. Te li dico tutti e cinque più o meno pari merito. Va bene. E, allora, ti direi Ex Machina, che forse per me è stato il più sorprendente ed è anche stato un film che è passato troppo sotto silenzio e anche molto sottovalutato. Ex Machina di Alex Garland. Pensa, me ne hanno parlato pochi giorni fa. Ah, vedi. Coincidenza. Sì. È un film poi di un esordiente, perché è il primo film da regista di Alex Garland, che è uno sceneggiatore, ed è secondo me raffinatissimo. Forse in tanti l'hanno un po' frainteso questo film, perché lo giudicavano come semplicemente un film di fantascienza, invece c'ha una dimensione fortemente filosofica e una messa in scena secondo me perfetta, perché è molto basata sugli opposti, sul contrasto fra natura e tecnologia, che si vede proprio nell'ambientazione, perché c'è tutto ambientato in questa casa ipertecnologica in mezzo a una natura selvaggia, quindi sì, già soltanto un primo impatto visivo dice tutto, no? E poi c'è il contrasto fra maschile e femminile, fra l'istinto, la seduzione e la razionalità, fra il corpo e la macchina, come probabilmente molti sapranno la storia è quella di che ruota intorno a un droide, che è una anche qui bellissima scoperta, Alicia Vikander, che quest'anno è proprio esplosa al cinema, ha fatto 250.000 ruoli, ma questo secondo me è stato il migliore, proprio sorprendente. Lei è questo droide, e anche qui il droide l'ho trovato fantastico, perché è una perfetta sintesi fra tecnologia e ambiguità umana, e dopo averne visti comunque tantissimi al cinema, a partire da Metropolis e da Blade Runner, secondo me qui Alex Garland è riuscito a fare qualcosa di nuovo, anche semplicemente visivamente, con questo personaggio. Gli attori sono fenomenali, appunto, da Alicia Vikander a Oscar Isaac a Donna Gleason. L'ho visto due volte e lo rivedrei altre 100 volte questo film, bene, proprio per cogliere bene i tanti spunti filosofici. Molto bene. Dopodiché un film forse che ci avranno citato in molti, che è Birdman di Iñárritu, che secondo me è eccezionale per la coerenza che ha fra la sostanza narrativa e la forma del racconto, perché riesce a mettere insieme la forma del blockbuster, gli effetti visivi esplosivi e comunque di qualità tecnica eccellente, con una sostanza narrativa secondo me raffinatissima, molto intelligente, di, appunto, che poi va anche a sfociare nella satira hollywoodiana, insomma, del mondo hollywoodiano. Virtuosismi tecnici pazzeschi, che però non sono mai gratuiti secondo me in questo film, come i famosi piani sequenza che ci sono, per esempio i piani sequenza dentro un teatro su un attore teatrale riportano proprio alla recitazione teatrale, no? Sì. A teatro l'attore può fare one shot, cioè ha solo diritto a un solo tentativo, e quindi è come se riproponesse davvero tecnicamente il teatro al cinema, quindi anche questo 10 e lode. Sì. Un altro film che io ho adorato è Forza Maggiore di Ruben Östlund, un film mi pare svedese, se non vorrei sbagliare, che è clamorosamente raffinato dal punto di vista visivo e delle scelte linguistiche. C'è la scena che all'inizio del film, di questa famiglia apparentemente perfetta, che comunque si autorappresenta come perfetta, in Settimana Bianca, in cui stanno seduti a questo ristorante su un rifugio di montagna e vedono calargli addosso una valanga controllata. C'è una cosa che penso che chi ha visto quel film non si dimenticherà mai, per la tensione tremenda che porta quella scena. È tra i miei cinque. No, che bello, vedi, non mi ricordo. Ci sono Eki di Bergman, una qualità formale pazzesca. Poi tra l'altro colgo l'occasione per dirvi di andare a recuperare il film precedente di Ostlund, che non so nemmeno se sia uscito in Italia, io l'avevo visto a Cannes, alla Canzen, che si chiama Play, e che è una storia tremendamente inquietante di un gruppo di ragazzini che manipolano, fai conto, 12 anni, che manipolano un altro gruppo di ragazzini. Un film meraviglioso che, di cui credo si sappia poco, appunto non so se sia uscito in Italia, però insomma, se vi capita di recuperarlo, è bellissimo. Bene. Dopodiché ne ho detti tre. Un altro che io ho adorato è Dio esiste e vive a Bruxelles di Jacob van Dormael, che è un regista meraviglioso, sì, che io adoro da quando ha fatto il primo film Totò l'Eroe, ormai più di 20 anni fa. Ma anche L'ottavo giorno. Anche L'ottavo giorno, e poi c'è stato Mr. Nobody, che è stato un film colossale, ambiziosissimo, anche molto sfortunato, e però secondo me sottovalutato anche quello. Mm-hmm. Solo 4 film in decenni di carriera, però secondo me Jacob van Dormael è un genio. Questo film può essere visto e letto solo come una commedia molto acida, ma anche molto sognante, e invece è una riflessione geniale, piena di invenzioni sul senso della vita, sul senso della morte, sulla religione, e sull'ateismo, sul femminile e sul maschile, divertentissimo, esilarante, pieno di idee, mescola un sacco di linguaggi diversi, una gioia per gli occhi. Secondo me anche questo è stato un po' trattato come una commedia, insomma, magari un po' così, un po' superficiale. In realtà dentro ci sta di tutto, saperlo leggere. Mm-hmm. Infatti spero che sia il successo che ha avuto lo porterà a farne altri presto. E poi l'ultimo della mia cinquina è un film italiano che è 87 ore di Costanza Quadriglio. Mm-hmm. Che secondo me è un film straordinario, eccezionale. Vabbè, è uscito poco, naturalmente è un film molto difficile perché parla della morte di Franco Mastrogiovanni, che nel 2009 è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, è entrato in ospedale e ne è uscito morto dopo 87 ore legato a un letto. Una storia vera, ovviamente, agghiacciante, e la cosa clamorosa di questa storia è che in questo caso, a differenza di casi analoghi, abbiamo le immagini del circuito chiuso dell'ospedale, e Costanza Quadriglio è stata capace di prendere un materiale così devastante, così importante, di trasformarlo in un film straordinario, perché ha fatto un'operazione artistica molto intelligente rispettando il materiale di partenza. Cioè era una sfida quasi impossibile. Mm-hmm. E secondo me lei l'ha vinta alla grande, e l'ho scelto proprio perché forse è passato un po' più inosservato di quanto meritasse. Cioè un cinema civile di grandissimo livello, sì, grandissima, sì, qualità. È importante che molti lo vedano, che molti sappiano questa storia, e poi c'è il talento di Costanza Quadriglio, che insomma ha saputo gestire una cosa del genere in un modo meraviglioso. Tra l'altro anche poi, perché il processo è ancora in corso, per il processo è ancora in corso, sì. Infatti è importante che ci sia, che si conosca questa storia. Tra l'altro il film, dopo essere uscito in sala in poche sale, con difficoltà, insomma con spazio e qua e là, l'altra sera era su Rai 3. Sempre, però insomma un po' in tarda serata. È importante poi sapere, no, queste storie e viverle anche, cioè in questo, veramente una cosa eclatante di questo film, al di là di tutte le questioni estetiche e formali, è che essendoci state le immagini del circuito chiuso sappiamo davvero cosa è successo, se no davvero, come si dice nel film o intorno al film, chi avrebbe creduto a questa storia senza avere, sì, quelle immagini? Cioè, sì, se quest'uomo fosse morto e noi non avessimo avuto a disposizione quelle immagini, potevamo pensare tantissime altre cose, visto che poi i medici e gli infermieri hanno detto cose diverse. Appunto c'è un processo in corso, quindi allora Michela, ricapitolando, ridiciamo i tuoi cinque, a partire allora, da Ex Machina di Alex Garland, Birdman di Iñárritu, Forza Maggiore di Ruben Ostlund, Dio esiste e vive a Bruxelles di Jacob van Dormael, e 87 ore di Costanza Quadriglio. Anche però vorrei fare una menzione e aggiungere due italiani così al volo, buttati lì, perché mi dispiace non averli detti, che allora, mi piace tantissimo, sono Non essere cattivo e Anne Capace. Brava, brava. è il mio italiano, Anne Capace, ma perché Eleonora Danco ha un rapporto particolare con questa radio, insomma, e noi la amiamo. Anche quello è un film strepitoso e sorprendente, sì, anche sì, questo sì, sorprendente. Allora, un augurio di buon 2016, Michela, un abbraccio anche a risentirci presto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. E questo erano i 5 preferiti di Michela Greco. E dopo Michela Greco tocca ad Alberto Crespi. Ben ritrovato, Alberto. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, com'è stato quest'anno 2015 per il cinema, Alberto? Ma è stato un anno buono, tutto sommato. E proprio ieri guardavo cosa ci aspetta per il 2016, per il solito pezzo di anticipazioni che mi ha chiesto il mio giornale, l'Unità, e devo dire che ho fatto un pezzo abbastanza pessimista, quando invece il 2015 mi sembra sia stato un anno che ha proposto delle cose interessanti sia in Italia che nel mondo. Hai tirato fuori dei 5 titoli? Sono prontissimo. E terrei per ultimo quello che per me è il film dell'anno, forse del decennio, forse del secolo. Prima, dunque, ho scelto due film italiani, forse un piccolo eccesso di ottimismo, però sì, secondo me sono due film ottimi che mi hanno molto emozionato anche per motivi extrafilmici. Il primo è Non essere cattivo di Claudio Caligari, perché non si può non voler bene a un film che Claudio Caligari ha voluto così fortemente e nella cui avventura per fortuna è stato aiutato anche da un attore amico come Valerio Mastandrea, che si è immolato proprio come produttore per trovare i fondi necessari a concluderlo. Il film poi è molto bello di per sé, è un film toccante, struggente, proprio in assoluta coerenza con i due precedenti film di Caligari, e non per rivangare polemiche ormai sepolte, però è un film che a Venezia avrebbe assolutamente meritato di andare in concorso. Forse non è il film giusto da mandare agli Oscar, vista l'esito della corsa, ma anche lì era difficile indovinarlo prima. Forse il film giusto da mandare agli Oscar era l'altro film italiano che nel 2015 mi ha molto emozionato, ovvero Mia madre di Nanni Moretti, che secondo me è uno dei migliori film di Moretti. È un film quasi miracoloso per come riesce ad essere commovente e divertente, a volte addirittura all'interno della stessa scena. Quindi mi sembra una sintesi perfetta del cinema di Nanni Moretti, mi sembra veramente uno dei suoi film più belli, e ha una Giulia Lazzarini meritevole di ogni premio, di ogni elogio, di ogni canto che glorifichi la bravura. Ok. Per quanto riguarda l'Italia, questi due film. Tra l'altro, ecco, per quanto riguarda l'Italia, c'è stato per Non essere cattivo il tuo voto e altre due menzioni. E Mia madre. Bene, e Mia madre un voto e una menzione. Il tuo voto è un'altra menzione. Quindi, insomma, sono piaciuti. Insomma. Mi fa molto piacere. Poi ho scelto due film internazionali, diciamo così, che non so quanto siano invece stati votati e menzionati, io comunque li voto. A me è piaciuto molto il film che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino lo scorso febbraio, ovvero da noi in Italia si chiama Taxi Teheran di Jafar Panahi, che è, come sappiamo, il film di un regista ancora formalmente agli arresti domiciliari nel suo paese, un film girato in condizioni veramente difficili, ma anche lì un film politicamente forte, dirompente e a tratti molto divertente. E riuscire a divertire da parte di Panahi nella condizione in cui si trova mi sembra veramente una cosa notevole. L'altro film che mi ha clamorosamente divertito e anche molto sorpreso, perché è un regista che di solito non mi piace molto, è Dio esiste, viva Bruxelles di Jacob van Dormael, sì, film belga, candidato all'Oscar, che è veramente un film che ha una trovata ogni minuto, e quest'idea di rappresentare Dio come un belga ubriacone che martirizza la moglie e la figlia finché la figlia non decide di mandarlo al diavolo, senso letterale del termine, e di scendere sulla terra, mi sembra molto molto originale e molto molto divertente. Sì. Infine Rullo di tamburi, il film dell'anno e secondo me uno dei film più belli che io ho visto in vita mia, quindi mi prendo le responsabilità di quello che dico, è il cartone animato Inside Out della Pixar. Ecco. Ora voi direte, vabbè, ci ha portato la figlia, c'ha una figlia piccola. Al di là dell'amore con cui mia figlia si è veramente infatuata di questo film, lo trovo un film incredibile, di grande profondità oltre che di grande divertimento, e poi un film coraggiosissimo, perché ditemi voi se gli avessero raccontato la trama di questo film dicendo che appunto, se viene da voi uno che vi dice voglio fare un cartone animato tutto girato dentro il cervello di una bambina con le varie emozioni che condizionano la sua azione, voi gli dite vabbè tu sei matto, vai da uno psichiatra, forse ne hai bisogno. Invece la Pixar è riuscita a farne un film accessibile, comunicativo, divertente, profondo, secondo me uno dei film più belli della Pixar, che pure ha fatto numerosi capolavori nella sua storia ormai lunga, ed è non il cartone animato, non il film per bambini, ma il film di gran lunga, secondo me, più bello del 2015. Bene, bene. Hai parlato proprio di capolavoro. Inside Out, ne sono curioso. Sei il primo che lo ha citato, però sei il sesto che sto sentendo, per cui potrebbe anche essere che... Speriamo che altri... Bene Alberto, è stato un piacere. A questo punto ci diamo anche gli auguri di buon 2016 e a risentirci presto. Buona fine, buon inizio a tutti coloro che ci ascoltano. Bene, un abbraccio Alberto. A voi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Questo per quanto riguarda Alberto Crespi, e questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Quest'oggi dureremo un paio d'ore vista l'assenza di Tracce di Cinema, e con una puntata speciale sui 5 film preferiti da colleghi e amici critici cinematografici rispetto ai film usciti in sala nel 2015. E dopo Alberto Crespi, Enrico Magrelli, ben ritrovato Enrico. Ciao, ciao, ciao, saluti a tutti. Allora, quest'annata com'è andata? Ma da un punto di vista cinematografico è andata come al solito, mi viene voglia di dire, da un po' di anni a questa parte. Ormai mi pare ci sia una divaricazione, una separazione fra un cinema che un tempo si sarebbe definito da una parte d'autore, dall'altro commerciale. Aiuto, scusatemi, ma la tosse ce e la l'influenza di fine anno ci vuole. E quindi ora mi pare che le categorie non sono forse più le stesse, però una netta separazione fra un cinema che si interroga sul cinema e si interroga anche sul mondo, e un cinema di plastica, come lo definisco io, ormai è una divaricazione che non trova quasi più nessun punto di contatto, purtroppo, insomma. Ed è chiaro che io sono per il cinema non di plastica, questo è ovvio. Sì, sì, sì, sì, sì. E passiamo ai tuoi 5, Enrico. Sì, allora, i 5. Dunque, come sempre, poi trovare i 5 titoli non è semplicissimo. Infatti, da stamattina che sto giocando con delle liste, e quindi quella non è quella definitiva, però è quella alla quale mi affido in questo momento. Sì. Guarda, io metterei Vizio di forma, sicuramente, di Paul Thomas Anderson, naturalmente. Poi Louisiana, il film che è stato, e mi pare sia stato anche accolto con molta attenzione a Cannes, di Roberto Minervini. Sì. Poi questo esordio molto sorprendente che è The Tribe, che arriva appunto dall'Ucraina. Sì. E qui sono già a quota 3, mi pare, se non sbaglio. Esatto. E qui vado un po' in confusione, nel senso che un film che ho amato molto è Taxi Teheran, e quindi includerei anche quello. Al momento è il più votato, ha avuto già 3 voti, insieme il tuo, insieme a quello di Alberto Crespi e Fabio Ferzetti. Ah, vedi, vedi, vedi, vedi. E allora poi dopo io aggiungerei anche Sicario, che è un altro film che mi ha molto molto colpito. Poi probabilmente, come spesso accade, no? Quando uno fa l'elenco dei titoli che sembrano così, da un punto di vista microscopico, quello che è quello di ognuno di noi, no? Che ripensa all'annata e cerca di capire cosa ha visto, cosa non ha visto. Purtroppo noi, secondo me, rischiamo poi di partire sempre da maggio in poi, no? Perché poi andare a trovare i titoli usciti prima, anche se Taxi Teheran, io l'ho visto al Festival di Berlino, immagino come Alberto Crespi e Fabio Fezzetti. Poi ad esempio Bergman non mi ricordo se è uscito quest'anno o è uscito l'anno prima, perché poi quello che succede a te, come a molte persone che fanno questo lavoro, che vedendo in anticipo i film poi dopo si crea una specie di sorta di jet lag del calendario per cui non si ricorda più dove collocarli. Se ho ancora un voto da dare, mi pare, io non dimenticherei un film che è uscito da poco, che è Dio esiste e vive a Bruxelles, tanto anche per dare, così, per alleggerire una cinquina che mi sembra molto seria e molto... Una menzione quindi per Dio esiste e vive a Bruxelles, e che anche questo ha avuto due voti, la tua menzione, quindi... Ah, va bene, questo mi fa piacere. Io ho finito i miei cinque, mi pare, sì, nel senso che non ho altri titoli di riserva, perché però ci sono anche delle cose italiane. Vabbè, allora mi attengo a queste, che poi magari domani non saranno più esattamente queste qui, però insomma. Se vuoi hai anche un'opzione per riguarda un italiano, visto che Louisiana comunque non si può proprio considerare no, certo, hai il regista italiano, ha una produzione in cui per fortuna c'è anche una quota italiana, no? Sì, c'è anche una quota di cinema, però un progetto internazionale e lì sai, c'è un dittico che lavora su uno stesso modello di immaginazione o di immaginario condiviso, e due titoli, però non li voto tutti e due perché altrimenti vado fuori fuori della cinquina, che sono Suburra e Non essere cattivo, no? Che secondo me in modo molto interessante ragionano dentro delle strutture di genere, dentro una geografia o una topografia del cinema che mi sembra molto molto molto vitale, per fortuna, insomma, è molto interessante, ed è il contrario del cinema di plastica, perché nessuno di questi film che sto citando in questo momento rientra nel filone della plastica, che poi è quella dei sequel, dei prequel, dei franchise, che va benissimo, è giusto che ci siano. Io però sono forse uno spettatore anziano e mi annoio molto quando vedo, purtroppo. Bene, Enrico, io ti ringrazio, è stato un piacere. Grazie a voi, buon anno, auguri. Auguri. Ci vediamo, ci sentiamo presto. A presto, ciao caro. Buon lavoro. E questo è Enrico Magrelli con la sua cinquina. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa. Continuiamo con le nostre cinquine del 2015. Dopo Enrico Magrelli c'è Nicola Falcinella, ben ritrovato Nicola. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Allora, raccontaci un po' com'è stato il tuo 2015 al cinema, come lo trovi? Ma il 2015 al cinema è stato un buon anno, magari non eccezionale, però è stato un buon anno, ci sono stati tanti film di ottimo livello, secondo me. Forse è mancato il filmone vocale, però mi sembra stato un buon anno. E per quanto riguarda il fatto che non c'è stato il film clamoroso, io nella mia cinquina ho messo due film che sono del 2013, che però sono usciti soltanto quest'anno nel 2015, però sia nei festival sia nelle sale credo che abbiamo visto tanti film belli. Magari in sala si sono un po' accumulati, non hanno avuto il tempo di essere visti, e vabbè, questo implica un po' un discorso ampio sulla distribuzione, però ci sono stati diversi film interessanti, credo. Allora cominciamo con i tuoi cinque. Beh, i miei cinque sono due del 2013 che sono arrivati sulla destra solo quest'anno, e sono Ralph Timmat di Edgar Wright e National Gallery di Frederick Wiseman. Allora. E poi ci sono Vizio di forma di Paul Thomas Anderson, Il racconto dei racconti di Matteo Garrone e Francofonia di Alexander Sakuro. Sì. In ordine sparso, cioè, forse metterei per primo Rides, però gli altri più o meno in ordine sparso. E vabbè, sicuramente Rides credo che sia uno dei film più importanti di questi anni 2000, che che è un film che corona tutta la serie di Heimat, e lo fa con uno stile sopraffino, con delle trovate di regia fantastiche. Non so, è un film che per me è molto, veramente molto molto bello, con delle chicche tipo il cameo di Herzog, con dei movimenti di macchina straordinari e veramente necessari dentro quel film, che secondo me davvero degli anni 2000 è uno dei film più importanti, l'Altheim. E poi vabbè, National Gallery su Weissman, credo ci sia tantissimo da dire a suo dato, che è uno dei documentaristi più importanti, e senza, cioè, documentaristi nel senso, per soltanto così come per chiarire un po' il lavoro che fa, ma non sì. per distinguere il lavoro del documentario da quello della fiction, che io considero alla pari e considero che non ci siano quasi più differenze tra uno e l'altro. E anche lì Weissman sa entrare nei luoghi, li sa raccontare, li sa sa tirar fuori la vita da qualsiasi luogo in un modo che è solo suo. E metterla nella cinquina serve anche un po' a ricordare nel suo ultimo lavoro in Jackson Heights, che era alla mostra di Venezia, e altrettanto bello, e spero che troverà un giorno la distribuzione. E poi National Gallery, appunto, è girato dentro la National Gallery di Londra, e un po' si collega questo lavoro sull'importanza del museo dell'arte a Francofonia di Sakurov, che da poco nelle sale è un po' schiacciato da una concorrenza fortissima da Guerre Stellari al Ponte delle Spie, Irrational Man, e poi ora che arriva al film di Checco Zalone, però è ancora in circolazione, e è un film che Sakuro, secondo me, è uno dei registi più magistrali in circolazione, ha una capacità di filmare quasi unica, e qui racconta, mostra, investiga quello che siamo, andando nei luoghi che conservano le nostre memorie, quindi i musei, quindi il Louvre, e sicuramente è un film di un'attualità spiazzante. E poi Vizio di Forma, e con il tuo voto va in testa con 3 voti insieme a Taxi Teheran. Che cosa? Il tuo Vizio di Forma, sì, con il tuo voto va in testa insieme a Taxi Teheran. Bene. E Taxi Teheran, a proposito, è uno dei film che avevo considerato fra i tanti, però poi alla fine 5 sono veramente pochi, sì. E bisogna scegliere, cioè io avrei fatto una lista di 50 e mi sarebbe spiaciuto di lasciarne fuori altri che mi sono piaciuti, forse perché ne vedo troppi, forse quello. Comunque 5 sono veramente pochi. Io considero Paul Thomas Anderson il regista americano più interessante che ci sia, quantomeno dire di giovani no, perché ormai però delle ultime generazioni è sicuramente quello che mi interessa di più, quello che è più interessante, più potente. E Vizio di Forma è un poliziesco veramente fuori dall'ordinario, con tantissime trovate, è un trip praticamente. Reinterpreta un genere e racconta quell'epoca, cioè fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, la droga, e poi anche un adattamento del romanzo in un modo che quello che dovrebbe fare il cinema, cioè un adattamento che è insieme libero e fedele nello spirito del libro. E insieme a una, e poi altro adattamento da un libro che anche questo molto nello spirito, però è anche quasi una reinvenzione, una attualizzazione, è quello che ha fatto Garrone, Matteo Garrone, con il racconto dei racconti da Basile. E Garrone, secondo me, anche qui è il regista italiano più bravo in circolazione, e secondo me il film è stato un po' snobbato, non è stato forse capito, non so perché, è stato considerato forse un fantasy, forse non lo so, e secondo me la somma del suo lavoro, del lavoro di Garrone sui corpi, sulla trasformazione, sul modificarci per piacere a qualcuno, per come era già in Primo Amore, come era già negli altri, è un lavoro sull'ambizione, su tante cose. Mm-hmm. E poi ci sono, secondo me, dei personaggi femminili che nel cinema italiano non hanno quasi, nel cinema italiano recente dico, non hanno quasi uguali. E poi riesce a far venire fuori questa cosa che era già in Basile, che è di un'attualità sconvolgente adesso, della chirurgia plastica, del volersi del volersi cambiare per piacere a qualcuno, per restare giovani. Sì. E poi magari ci sono tantissime cose di regia. Secondo me, io sono garroniano fin dal suo primo cortometraggio, però il racconto dei racconti è per ora il vertice di una carriera importante. Mm-hmm. E poi c'è Francofonia. Sì, Francofonia, si è già detto qualcosa, è un film che da una parte dialoga con l'arca russa, a cui è stato fatti molti confronti con l'arca russa, forse perché quello era girato dentro l'Eremitage a San Pietroburgo. Però per me è un film che torna più allo spirito delle elegie di Sakuro, che le elegie erano una serie di film di formato diverso, mediometraggi, corti, lunghi, soprattutto negli anni 90, e con una grandissima libertà formale di invenzione, qua andava più per associazione, mentre Arca Russa è un unico piano sequenza, anche quello un flusso, un viaggio dentro la storia del museo, mentre qui mette, Sakuro usa tanti linguaggi e dà una padronanza di questi linguaggi, una padronanza tecnica veramente sopraffina, e tutto al servizio di un discorso che vuol fare per andare al di là delle guerre, per andare un po' alla radice dell'identità europea. Sono molto interessanti i discorsi che fa sull'arte, sul ritratto, sull'importanza dei ritratti nella storia dell'arte europea, nella cultura europea, e Sakurov è un uomo di una grande cultura, e i suoi film secondo me sono sempre molto stimolanti. Bene, e questi sono i 5. E questi sono i tuoi 5. Nicola, io ti ringrazio e ci diamo anche gli auguri per un buon 2016 e a risentirci a presto. A risentirci a presto, auguri a tutti da parte mia. Ciao Nicola. Ciao, ciao. Questo Nicola Falcinella con i suoi 5 film. Dopo Nicola Falcinella tocca a Maurizio Di Rienzo. Ben ritrovato Maurizio. Buonasera a tutti, buona Pasqua, mi porto avanti, grazie dell'invito. Dopo Nicola Falcinella, Maurizio Di Rienzo, mi sembra un salto generazionale invecchiato. Vabbè, comunque, accetto. Allora Maurizio, un bilancio 2015 intanto. Difficile farlo, non dico a memoria, ma anche spulciando fra appunti e cose, perché come al solito i film sono troppi, si accavallano a quelli visti a qualche festival importante ancora non usciti, per cui è un 2015 sicuramente monco, o che ha raccolto delle cose che erano monche nel 2014, come Birdman. Quindi il punto è che il cinema americano, che sta raggiungendo un sacco di record, è sempre più frazionato, pur appartenendo al grande abbraccio hollywoodiano, più o meno quasi tutti, anche i piccoli studios indipendenti. Ma è una realtà che comunque il Sundance Festival e anche festival come Tribeca, New York Film Festival, riescono, non parliamo di Toronto, quello vabbè, d'accordo, è quasi una sorta di must, però riescono a proporre una serie di cose del loro territorio, anche canadese e o australiano, inglese che sia, però soprattutto americano-canadese, perché è molto variegato e lascia sperare che ci sia una giovane generazione che sta provando a raccontare storie senza necessità, perché la storia non lo richiede, di CGI, cioè del digitale o di effetti particolari o di fantasy o altro, di ricostruzioni storiche mostruose. Però quello che è venuto fuori tanti anni fa con Coppola, Scorsese e De Palma, per esempio, 40 anni fa, insomma, non, 40 e più anni fa, non si intravede, ma non è più neanche quel cinema lì che può consentire una cosa del genere. Adesso è il titolo che fa agio, perché io voglio capire chi si ricorda Mad Max, Fury Road, chi si ricorda il regista di Fury, chi ricorda il regista piuttosto di anche di Inside Out, per me numero uno dell'anno, del cartone animato, ho detto cartone animato, sono vecchio, dello straordinario anche film. Alberto Crespi lo considera un capolavoro, sì, perché ha rivoluzionato alcune regole fisse della storia animata, anche se recentemente Cattivissimo Me, gli stessi Incredibili, guarda caso prodotti insomma di quel tipo, della Pixar, ecco, avevano dato nuovi spunti. In questo caso Inside Out ha talmente rovesciato il ruolo della fantasia, perché la fantasia in quel film, anche la fantasia della mente in cui i protagonisti sono e vivono e orientano la vita della bambina, ecco che la vita, cioè la fantasia è realtà in tutti i sensi e non come un sogno sviolinato. Questo per dire Inside Out. Per il resto il cinema mondiale ha proposto come al solito una fluviale pioggia di opere prime, non ci sono grossissimi talenti dall'Asia, ma sicuramente il cinema cinese offre ogni anno due o tre nomi totalmente nuovi che faticano forse a uscire in Italia, strani rari casi, però che sono significativi, per non parlare del cinema giapponese, mi sembra, il coreano mi sembra un po' più in ribasso. È evidente che in Africa il cinema che si fa è quasi miracoloso, oppure se è come dire, finanziato adeguatamente da partecipazioni francesi o qualche coproduzione con la Germania e qualche raro caso di coproduzione americana, può avere un certo sbocco, altrimenti si tratta di storie magnifiche che con poche eccezioni, specie dal Maghreb, però ci sono, riusciamo a vedere e ad apprezzare. E, se sono lungo mi fermo, perché insomma, no, vai. Velocemente, il cinema europeo, visto che non esiste l'Europa, non esiste neanche un cinema europeo secondo me politicamente, ma esistono tante lingue e tanti modi di produrre e di fare cinema, al di là dell'esempio come dire stracciatamente usuale della Francia, per produzioni, per leggi, bla bla bla, che penso sia in crisi col suo cinema, tranne eccezioni. Io credo che due sono le cose da dire del cinema europeo 2015, visto che viene anche dal 2014 eccetera, che sempre più autori, anche quarantenni, cinquantenni, non giovanissimi, cercano di inserire elementi realistici, non so più come definirli ormai, di realtà o di in qualche modo non finzione nel senso narrativo puro del termine, e in storie che narrative rimangono, bene o male, e sempre più ci sono film in cui si parlano più lingue. Questo indipendentemente dalla coproduzione, perché la migrazione dei popoli post-balcanici, per esempio, o anche dall'Africa, ha prodotto storie, ha moltissimi documentari, lo sai meglio di me, certo. In Italia e altrove, però ha prodotto storie in cui i protagonisti sono sicuramente persone che hanno a che fare con un altro mondo. Io ricordo il primo film, o il secondo, credo, di Fatih Akin, visto in Piazza Grande a Locarno miliardi di anni fa, 2003-2002, si chiamava Kurz und Schmerzlos, rapido e indolore, ed era la storia di tre amici, un bosniaco se non sbaglio, un tunisino e un serbo, che ne fanno ricotta e di crude in una Amburgo, credo che fosse la città, insomma, in una città. E quello era già un film che aveva anticipato una serie di, sì, di altre cose. Quindi il cinema europeo sta probabilmente cercando di cambiare, fatica evidentemente a trovare una, non un'unità di intenti, ma a trovare una identità che possa spalmarsi adeguatamente come i tentacoli di una piovra, e nello stesso tempo devo dire però che l'Italia importa come distribuzione, almeno teatrico eccetera, una grande quantità, grazie a certi distributori o per colpa di certi distributori, una grande quantità di cinema made in Europe che passa attraverso i soliti grandi festival che conosciamo. Ancora lo fa, io non credo ci sia un altro paese, forse la Francia qualche volta ci eguaglia, altrimenti se pensate che l'Inghilterra e in Germania vedono film europei, scordatevelo. Senti, passiamo ai tuoi cinque, Maurizio. Sarò veloce. Inside Out va benissimo come numero uno, per motivi complementari. Birdman è numero due. Birdman. Perché è stato un azzardo, aveva un paio di finali di troppo, ma è un film talmente complesso e concreto, con attori non in stato di grazia, in stato di attori, che credo, a cominciare da Michael Keaton, che credo abbia un senso, perché racconta anche il, come dire, il confine fra l'arte, la follia, l'egocentrismo, gli affetti, insomma tante cose insieme. Poi a me è piaciuto, mi ha convinto, mi ha sorpreso molto Mad Max, il Fury Road, il solitario di George Miller, settantenne, che ha fatto un film estremo con poca storia, e ci ha regalato una Charlize Theron, io la chiamo Charlize, non so, Theron, adeguatissima e non sopra le righe, e tutto il resto, beh, visionario ma anche preveggente, e mi è piaciuto molto. Fra i piccoli film americani molti dicono Whiplash, io dico The Nightcrawler, quello con Jack Gillen al reporter per caso, o forse per forza, dietro una cinepresa che diventa parte di un ingranaggio talmente più grande di lui nel tentare di riprendere al volo o di causare addirittura eventi da cronaca nera per essere il primo a metterli in video al canale via cavo che, per cui collabora, sì. Quindi Nightcrawler, ho detto Mad Max, Birdman, Inside Out, il quinto secondo me è Louisiana di Roberto Venervini, eppure in America stiamo, perché chiude la trilogia che aveva cominciato con gli altri due film, Stop the Pounding Heart eccetera, e questo toscano che vive ormai in America e si è inventato regista dopo vari passaggi di lavori e di altri sentieri, è riuscito a entrare in una comunità davvero marginale, ma che ne riflette altre, è molto variegata nell'essere contro sempre, contro tutti, contro anche il mito americano, contro la bandiera e contro tutti, e si è fatto ben volere e ha fatto raccontare delle storie che altrimenti non sarebbero venute fuori, con una forza narrativa e una capacità di mettere la macchina da presa nel momento giusto, al posto giusto, quasi sempre, notevole. Quindi questo era stato al Settende Gard di Cannes, Louisiana, spero che esca un po' meglio al più presto, sono i miei cinque film. E ti segnalo due titoli, Tout Court, e poi vi saluto, gli italiani. Io sono un fan del film di Garrone, per molti motivi, Il racconto dei racconti. Sì. È un film anche altrettanto complesso, ambizioso, sì, ma artigianale, nel senso proprio tecnico del termine. Ed è un film che parla di colori ed emozioni, e di labirinti anche mentali, attraverso le fiabe, ma fiabe vere, quelle di Basile, più crude di quelle di Perrault e di Andersen. Insomma, il racconto dei racconti è stato sottovalutato. E poi ovviamente Caligari, non essere cattivo, una sceneggiatura così e degli interpreti di quel tipo, francamente difficile trovare nel cinema italiano. Si vede che era un film da fare necessariamente, onore a chi ha aiutato il grande Caligari prima che morisse a finirlo. Maurizio, un abbraccio, un buon 2016, a risentirci presto. Grazie Federico, un saluto a tutti e mi raccomando, non scaricate. Ciao. Ciao. Ciao Maurizio. E dopo Maurizio Di Rienzo, un altro Maurizio, questa volta Porro. Ci sei Maurizio? Eccomi qua, buongiorno, salve, ciao. Ciao, ciao. Come va? Tutto bene? Sì, 3 stellette, non di più, una roba giusta. Roba giusta. Allora, che ne dici di questo 2015? Ma io dico che mi porto via dei ricordi abbastanza cospicui di film belli, interessanti. Non è vero che è stato un anno povero, come si sente spesso dire in giro, dove non c'è niente da vedere eccetera, e non mi riferisco tanto agli episodi così di marketing come questi ultimi natalizi, ma insomma ci sono dei film che secondo me lasciano il segno, a partire per esempio da un film di cartoni animati che in genere onestamente credo che il mercato sia saturo, almeno personalmente il mio mercato è saturo, ma Inside Out trovo che sia un film bellissimo, che è una specie di piccola grande rivoluzione. Pensa che Maurizio che... sei il terzo che lo vota, quindi è tra i primi in Inside Out. Va bene, sono contento. E poi per andare invece in un territorio diverso, che però a me è ugualmente, anzi più gradito ancora dalla commedia sofisticata, Tutto può cadere a Brode di Bogdanovic, è un miracolo, è un film miracoloso che ci riporta indietro appunto nell'alveo e nello stile, nel piacere di un tipo di commedia, di un tipo di cinema come da tempo non si riusciva più a fare neanche in America. E il fatto che l'abbia diretto un regista di oltre 80 anni appunto come Bogdanovic è abbastanza miracoloso. E poi ci sono tante cose. Io per esempio ho amato molto un film italiano che si chiama Suburra, nonostante quello non sia il mio genere, il mio stile, il mio tipo di interesse, però l'ho trovato un film abbastanza all'americana e abbastanza inedito per l'Italia, un film di grande potenza e anche prepotenza proprio visiva, a parte le profezie plurale che contiene, perché è stato fatto prima di tanti fatti di cronaca nera che poi si sono realmente svolti e accaduti, per cui credo che pur essendo un film di genere, diciamo, soldi, ma abbia fatto un'operazione molto intelligente che forse meritava anche più successo di quanto non abbia avuto. E lo stesso direi di Alaska, che forse è un gradino più sotto, ha delle ridondanze, ha delle cose, però nel cinema italiano direi che questi due, e Non essere cattivo, che è il film da rivelazione, come credo che altri te l'avranno segnalato e comunque io lo segnalo senz'altro, penso che siano i titoli da ricordare. Insomma, sono 3 film italiani appunto non panettoni, anzi il contrario dei panettoni, sono qualcosa che non vuole addolcire, sono dei film assolutamente amari, ecco. Sono dei panettoni, non voglio dire che restano sullo stomaco perché è negativo, però insomma ci siamo capiti, ecco. Sì. Sono dei film in qualche modo di denuncia abbastanza importanti, quindi una cinquina che ne contiene 3 di italiani, interessante questa scelta. Sì, poi io amo Sorrentino, per cui ci metterei comunque dentro Giovinezza, Youth, sì. Perché trovo che sia un film pur con degli errori, con delle ridondanze, con delle ripetizioni, con delle fellinate forse troppo dichiarate, però insomma è un film che resta, è un film che ti rimane visivamente in mente, e non solo visivamente, anche per le performance degli attori. E poi non so se di quest'anno, dell'anno scorso, quello girato in tempo reale, in tempo reale in 20 anni. No, quello era lo scorso anno. Lo scorso anno è passato e lo anno. E lo votarono. Sì, fu il più votato, sì. Tra l'altro. Allora arrivo in ritardo. Me ne manca uno sempre. Scusa, hai detto Inside Out, Bogdanovic, Suburra, Alaska, Non essere cattivo, e poi hai menzionato anche Youth di Sorrentino. Sì, certo, sì, e poi certo. se vuoi puoi anche menzionarne un altro, perché no? Non lo so, magari mi dimentico qualcosa di fondamentale, perché poi è difficile fare tutti mentalmente, certo, fare i riassunti, certo. Però, aiutami tu, se c'è qualcosa di fondamentale che ho dimenticato. No, però posso dirti che oltre a Non essere cattivo, che ha avuto un voto e 5 menzioni insieme alla tua, i più votati al momento sono, con 3 voti ciascuno, Taxi Teheran, Vizio di forma, il nuovo Mad Max e Inside Out della Pixar. Ecco, no, no, Mad Max, pur apprezzandone, so, ho capito, immagino, però insomma, pericoloso, voglio come finirla con i film fantastici. Diciamo pericoloso. No, Taxi Teheran sì, è un bel film, non mi ha fatto impazzire, ma è sicuramente un bel film, poi si porta dietro una tale dose di storia umana personale che potrei benissimo, anzi dovrei e potrei vorrei benissimo citare anche quello. Devo dirti anche i peggiori o no? Cosa? O siamo solo buoni? Devo dirti anche i peggiori o siamo solo buoni? Beh, siamo solo buoni, perché non c'è limite al peggio, insomma. Sì, avendo visto qualcosa di questo Natale di Panettone, ecco, questi sì, veramente rimangono sullo stomaco. Rimangono sullo stomaco. Maurizio, io ti ringrazio, un augurio di buon grazie 2016, a risentirci presto. Va bene, buon lavoro, grazie, ciao, a presto, ciao. Tanti auguri. Ciao, auguri, ciao. Ciao. Maurizio Porro, per quanto riguarda la sua cinquina, e questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, quest'oggi uno speciale di Capodanno, visto che siamo al 31 dicembre, con le cinquine, come ogni anno a fine anno, inizio dell'anno successivo. Ultimamente anche in 2 puntate lo stiamo facendo, infatti il giovedì 7 ci sarà la seconda parte di questa lungo speciale sui 5 film preferiti dai colleghi e amici critici cinematografici. Federico Pontigia dopo Maurizio Porro, eccoci qui, ciao caro. Non in ordine alfabetico, ma buongiorno a tutti e sin d'ora auguri. Auguri anche a te, ma ci torneremo sopra, un concetto importante. Senti Fede, allora chiedo a tutti un piccolo bilancio dell'anno, che dici? Guarda, come anno secondo me è stato un anno, non guardo in casa perché è troppo facile, abbiamo 4 film a Venezia, 3 a Cannes, un film in corsa agli Oscar, non abbiamo portato nulla, ci siamo dovuti accontentare, tra virgolette, è il premio importante, siamo noi che non lo capiamo, dei 3 EFA, gli European Film Awards toccati a Youth, la giovinezza di Paolo Sorrentino, che già aveva fatto Tris con il precedente La Grande Bellezza e riesce ancora a vivere di rendita, soprattutto in ambito europeo, c'è l'onda lunga della Grande Bellezza, premiato con gli Oscar, Trefa appunto si fa ancora sentire. Però al di là di questo mi piacerebbe concentrarmi brevissimamente su quello che sta accadendo a Hollywood, sì, più in generale nel cinema americano. Secondo me le linee di tendenza sono 2. La prima, non è stato un grande anno per il cinema indie, il cinema indipendente americano, perché le migliori intelligenze oramai si travasano, vengono travasate sui serial, sulle serie TV, quindi si sente una carenza da questo punto di vista. Me and Earl and the Dying Girl forse è stata l'unica perla dal punto di vista indie, anche se è un film inferiore per esempio a The of the Wallflowers, Little Miss Sunshine, più noto da noi. E seconda cosa, sempre a Hollywood, e proprio le parole di questi giorni, cioè di ieri, di George Lucas, vanno in questa direzione. Si sta assistendo a una crudele transizione tra i postumi della New Hollywood, ovvero quelli ancora grandi, penso a Spielberg, penso a Lucas, penso a Zemeckis, e la Hollywood che sta venendo e soprattutto che verrà. Mi spiego. Non casualmente Il Ponte delle Spie di Spielberg, che pure è un buon film, è stato snobbato ai premi più importanti americani. Viceversa, Spielberg rimane campione di incassi, ma avendo passato la mano con Jurassic World, che soprattutto in America e per ora anche nel resto del mondo è il primo incasso del 2015, alla faccia di Star Wars. Star Wars accade la stessa cosa, George Lucas ha passato la mano e sono arrivate dei bei soldi, 4 miliardi di dollari, ceduti alla Walt Disney e la Lucasfilm. Proprio ieri ha detto di non essere contento del risultato dello Star Wars The Force Awakens di J.J. Abrams, perché è un film retro, ma soprattutto ha chiamato gli acquirenti della Lucasfilm, ovvero la Disney, degli schiavisti bianchi. Per quanto riguarda questa transizione, rimane da segnalare questo crescente, questa crescente messa a riposo dei mostri sacri della New Hollywood. Ne troviamo conferma con un film splendido, snobbato da tutti i premi. Vedremo se sarà così anche le candidature degli Oscar, che saranno il 14 gennaio, ovvero The Walk 3D di Zemeckis, sono impresa di Petit, un film che è passato anche dal Festival di Roma. Chi rimane ancora invece in prima persona singolare con un piglio forte a Hollywood, della New Hollywood, è Martin Scorsese, però purtroppo il suo Silence non l'abbiamo visto e dovremo aspettare il 2016. Bene, allora Fede, passiamo ai tuoi 5. Allora, i miei 5 sono dei film che sono passati dai festival, qualcuno non è ancora uscito in Italia, qualcuno purtroppo credo non uscirà. Comunque brevemente, mi è piaciuto molto Il Racconto dei Racconti di Matteo Garrone, ma non lo metto tra questi 5. Metto Per Amor Vostro di Gaudino, un film premiato a Venezia con la Coppa Volpi a Valeria Golino, ma che poi non ha avuto in sala l'attenzione che meritava. Poi Unico degli Italiani non è stata, al di là dei premi vinti, un'ottima annata per il cinema italiano, ma lo sapevamo già. Metto Francofonia di Sokurov, di Alexander Sokurov, che è attualmente in sala. Son of Saul, il figlio di Saul, che arriverà brevissimo, il 21, ed è il film di Laszlo Nemes sugli orrori dell'olocausto. Metto un film che ho provato a parlarne con più di una distribuzione e ho le prove, perché ce l'ho forte in Italia, però i risultati non ci sono stati. È Behemoth, il film cinese che per me rimane il vincitore morale dell'ultima mostra di Venezia. E poi ancora, per la rassegna Non Visti, La Bolero lo continua a spostare, l'avremmo già dovuto vedere da più di un mese. Credo che a livello politico, a livello di denuncia, a livello cinematografico, ecco, mettendo insieme tutte queste tre cose, sia in assoluto il film migliore dell'anno, è Il Club di Pablo Larraín sugli scandali in seno alla Chiesa Cattolica, non solo la pedofilia, si parla di cinema, ma anche per esempio la collaborazione con i militari, la sparizione di persone. Ebbene, un film straordinario, anche questo è passato in Italia, Festa di Roma. Ebbene, speriamo che la Bolero si svegli e ce lo porti a brevissimo in sala, perché è veramente un film straordinario. Senti, allora, ricapitolando, Racconto dei Racconti lo hai solo menzionato? No, l'ho menzionato perché mi piace molto il cinema di Garrone, è un grande film, però metto solo L'Italiano, che è Per Amor Vostro. Poi okay. Francofonia, sì. Behemoth, il cinese di Zhang Liao, passato a Venezia. Son of Saul, figlio di Saul, che arriverà con la Teodora il 21 gennaio, di Laszlo Nemes. E poi il primo di questi, il primus inter pares, avremmo detto allora di latino, che è El Club di Pablo Larraín, da non confondere con El Clan di Pablo Trapero, che è un film, come dire, distante anni luce da quello di Larraín. Ok, benissimo. Non sono, lei l'hai già anticipato tu, non sono stati distribuiti tutti in sala in questo 2015, no, uno, però insomma due stanno per arrivare, però sono transitati dai FES. Quello che a cui ancora manca la distribuzione è Behemoth, e speriamo ci arrivi presto, perché è veramente un film suggestivo sulla Divina Commedia traslocata nei suoi gironi infernali, soprattutto nella Cina odierna, nella Cina dei minatori e non solo. Fede, io ti ringrazio, veramente auguri per questo 2016, ci sono importanti novità in arrivo per te. Ci sentiremo strillare il prossimo anno. Ne sentiremo strillare. Va bene. Un abbraccio, a presto. E auguri ancora. Auguri, ciao Fede. Ciao. Federico Pontigia con i suoi 5 film. Ecco, dopo Federico Pontigia, Giorgio Gosetti. Giorgio, ben ritrovato. Grazie, ben ritrovati a voi e auguri. Auguri, ma ci torneremo sopra. Senti Giorgio, allora, quest'anno cinematografico per te che ha detto? Che è stato un anno bello. È un anno bello. Un sacco bello. Di titoli per cui arrivare a una cinquina mi è stato piuttosto complicato. Sì, infatti non ci sono film staccati di tanto, abbiamo... sentito più di 10 amici e colleghi finora, e i film che hanno ottenuto più voti sono 3 a testa, per dire, insomma, quindi non sono staccatissimi. Curioso che, come dire, blockbuster assoluti come Inside Out o perfino Star Wars non siano in testa. Inside Out invece è proprio in testa, con 3 voti, con altri titoli. Era difficile non metterci, sono d'accordo. Senti, sentiamo i tuoi di 5, allora. Allora, i miei sarebbero stati 9, per cui andiamo a 5, però con 2 menzioni speciali per le cose italiane, che sono Noi e la Giulia, perché abbiamo un gran bisogno di film... che diano linfa e struttura a un senso della commedia visibile non soltanto a casa nostra, che funziona in sintonia con un gusto di pubblico e fatto con quell'attenzione e quella cura che spesso, troppo spesso, la commedia italiana non ha. Sì. E poi un film che voglio menzionare perché è il più grande atto di generosità di un regista che l'abbia visto negli ultimi anni, che è La Prima Luce di Vincenzo Marra. Sì. Dopodiché andiamo in cinquina. Ok. Il film più bello per me, Whiplash. Whiplash, film indipendente, film scoperto a Sundance, poi film diventato di culto in qualche modo, secondo me uno dei risultati più originali del cinema americano che non segue obbligatoriamente le mode. Sì. Secondo, il film che ha vinto il Festival di Cannes, T-Pan di Jacques Audiard, un film che secondo me, soprattutto per il suo finale, ha lasciato perplesso più d'uno e che invece resta, a mio parere, fra i risultati migliori e più significativi di un regista che io amo tantissimo. È stato votato anche da Fabio Ferzetti, per esempio, di Pan. Ecco. Ciò dice la lunga su alcune sintonie fra noi due. Terzo, mi allineo anch'io, Inside Out, lasciamolo pure andare avanti, anche se ogni tanto... A questo punto è primo, staccato, con 4 voti. Anche se ogni tanto bisognerà domandarsi se tutti questi ormai veterani e con la barba bianca che amano il cinema e che partecipano alle classifiche non rischino di avere una crisi di infantilismo, perché ho capito che il cartoon parla agli adulti come parla ai ragazzi, parla a tutti e ha un linguaggio ormai universale, però prima o poi qualcuno si domanderà perché Walt Disney è un genio ma non è necessariamente superiore a Orson Welles nella storia del cinema. Quarto, Non essere cattivo di Claudio Caligari, perché se lo merita tutto. Okay. Assolutamente. Sì. E anche perché rivela forse 2 degli attori giovani italiani più interessanti dei prossimi anni. Sì. E quinto perché è un film con molta intelligenza e soprattutto un film di una attualità tematica talmente importante che non riuscirei a lasciarlo fuori, che è Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg. Scusami, pensavo al Ponte delle Spie di Steven Spielberg. Perché è un film che io credo abbia sorpreso persino il suo regista, che quando lo ha scritto insieme ai fratelli Coen e poi l'ha diretto, non si immaginava che un presidente di una repubblica come il francese Hollande chiedesse la sospensione delle libertà costituzionali subito dopo per un atto di terrorismo. Beh, questa è la risposta che per una volta il cinema americano ci insegna. Bene, questi sono i tuoi di voti, Giorgio, e con questi, tra l'altro, come ti dicevo, Inside Out diventa primo con 4 voti e Il Ponte delle Spie ti trova insieme ad esempio a Pedro Armocida, per cui anche quello risulta votato. E beh, si sta delineando un po' però comunque ci sono molti titoli appaiati, quindi sta diventando una cosa molto interessante. La dice lunga anche sulla frammentazione e anche sulla qualità più in generale di quest'annata cinematografica, che molti ritengono buona, insomma. Sì, francamente dovremmo essere contenti di quello che ci ha regalato il cinema. Vediamo un po' cosa succede da Checco Zalone in avanti nel 2016. Esatto, intanto un buon 2016 e Giorgio, a risentirci presto, un abbraccio. Grazie mille Federico, e davvero ancora auguri tantissimi a tutta la redazione e poi a chi ci ascolta. Bene, a presto, ciao ciao. A presto. Giorgio Gosetti a Visionari con i suoi 5 film del 2015. Allora, dopo Giorgio Gosetti, Steve Della Casa, ben ritrovato, caro. Buongiorno a voi. Stavo dicendo che qui la situazione si è complicata perché abbiamo in testa con 4 voti Inside Out e poi alcuni titoli a 3 voti e ce ne sono parecchi, insomma è piuttosto equilibrata. Allora, io Inside Out non lo voto, quindi, quindi resta non lì la maggioranza assoluta. <col mio. ride> Allora, io ho molto amato American Sniper, il film di Clint Eastwood, ho molto amato il film di Michael Mann che si chiama Black Hat, poi ho molto amato Non essere cattivo, il film di Caligari uscito postumo dopo la sua morte a Venezia, che è stato per qualche settimana un possibile candidato all'Oscar, poi purtroppo non ce l'ha fatta. Ho molto apprezzato Francofonia, il film di Sokurov rientrato a Venezia, che è ancora nelle sale in questi giorni, che secondo me è un capolavoro di come si può fare un film d'arte senza sfuggendo abbastanza alla retorica, restituendo attraverso le immagini la grandezza, la famosa sindrome di Stendhal, che non è la sindrome dello Stendhal, insomma è una cosa diversa. E poi ho molto amato il film della Bispoli che si chiama Vergine Giurata, quello con Almar Rohrwacher, che è andato al Festival di Berlino, che poi è uscito nelle sale diciamo febbraio-marzo dell'anno scorso. Questa è la mia cinquina. Sei la tua cinquina e ci torniamo sopra. Intanto allora dacci una tua visione di questo 2015 più in generale. Diciamo che è stato un anno in cui si è registrato non un flop ma un arretramento delle commedie italiane. Forse sono troppo ripetitive, forse sono poco ispirate, forse bisogna che gli attori sono sempre gli stessi, bisogna cambiare qualcosa. Poi è un anno in cui l'animazione, che io personalmente non amo troppo, ma comunque l'animazione intesa come mega maxi categoria nella quale si comprendono varie tecniche, varie formule di fare i film, in quest'anno l'animazione però ha stradominato la scena. È un anno in cui diciamo gli italiani e gli esercenti in modo particolare aspettano il primo dell'anno con una liberazione, perché uscirà domani appunto il sindicato Zalone, che promette di risollevare sale, sorti, incassi, percentuali e così via. Insomma, è stato un anno un po' di transizione, un anno in cui i film italiani non hanno, cioè, sono stati concepiti in maniera più internazionale, prova ne è che c'erano a Cannes ben tre film italiani di tre autori tutt'altro che secondari, ma poi in realtà non hanno vinto niente questi tre film. Quindi in realtà è un anno contraddittorio, con spinte e controspinte. E per quanto riguarda l'America, è un anno appunto in cui la tecnica, la tecnologia, loro marcano tantissimo. Infatti il film che ho votato, American Sniper, è un film che non fa riferimento alla tecnologia e agli effetti speciali eccetera, è un vecchio sano forte film d'avventura del vecchio sano forte Clint Eastwood. Senti, ecco, adesso invece tornando ai tuoi cinque, se vuoi puoi approfondire qualche titolo. Beh, Non essere cattivo è un film che intanto ha rivelato una coppia di attori straordinari, insomma, che sono la vera ossatura del film, sono bravissimi, sono forti e così via, e ha dimostrato il grande talento di una persona, Claudio Caligari, alla quale piaceva fare cinema fuori dagli schemi, insomma, e forse proprio per questo è stato molto emarginato dall'industria. E poi Vergine Giurata è un piccolo film molto coraggioso. Coraggiosa è stata la regista, coraggiosa è stata Alba Rohrbacher, coraggiosi sono stati i produttori, Paonesse e Donzelli della Vivo Film, a fare un film volutamente, no, estremo, forte, provocatorio eccetera. E insomma, di questa cinquina sono molto contento. Poi insomma rappresenta anche un po' il cinema che piace a me. Mi piace il cinema d'azione, mi piace il cinema d'autore, mi sembra che entrambi siano rappresentati bene. Allora Steve, io ti ringrazio, è stato un piacere come ogni anno, speriamo di sentirti presto tra una delle due trasmissioni o Tracce di Cinema o Visionari, insomma. Hollywood Party in questi giorni è terreno mio, quindi se qualcuno ti tradisce verso le 7 di sera può andare su Radio 3 e mi sente. Allora un abbraccio e a presto Steve. Auguri a voi. Auguri, ciao, buon ciao, 2016. Ciao. Ciao. Steve Della Casa, per quanto riguarda le sue cinquine, abbiamo chiuso a questo punto. Faccio un rapido resoconto, un inventario adesso rispetto ai nostri ospiti. Mi sa che li abbiamo sentiti tutti. A questo punto mando in onda la registrazione dell'intervento di Fabio Ferzetti che abbiamo fatto in diretta martedì due giorni fa, perché oggi non avrebbe potuto, e con quella poi chiudiamo la prima parte, perché il prossimo giovedì 7 gennaio avremo altri credo 5-6 ospiti tra colleghi ed amici critici cinematografici per ultimare questo discorso sulle cinquine e tirar fuori i cinque film che sono stati più apprezzati in questo 2015 tra quelli usciti in sala. Bene, questo è l'intervento di Fabio Ferzetti. Intanto ben ritrovato su queste frequenze. Sono qua, buongiorno, bella patata bollente. Eh sì, devi rompere il ghiaccio. Rompiamo il ghiaccio. Allora intanto ti chiedo, Fabio, un po' più in generale, poi entreremo nello specifico, un bilancio di questa annata cinematografica. Ma il bilancio, come dire, mondiale, insomma, della stagione è buono, perché ci sono sempre tantissimi bei film. La cosa sconsolante è che continua a divaricarsi la forbice tra i film che vengono visti e quelli che non sono visti, che sono visti da un numero sempre più esiguo di spettatori, e aumenta vertiginosamente il numero di grandissimi film. Io questa cosa l'abbiamo fatta anche oggi per il sito del Messaggero con Alò, arrivando fino a 10 titoli a testa. Insomma, una buona metà dei miei l'hanno visti veramente pochi fortunati, e a me dispiace fare scelte che possono sembrare impopolari, ma è un problema serio, perché sì, non arrivano più, non c'è più un pubblico informato che ha il tempismo, che capisce che questi film dureranno poco e che va a vedere. Io ho visto ignorare o quasi film bellissimi, come per dirne uno che sarà tra i miei primi cinque, che so, peraltro non è un film clandestino perché ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, ed è Dipan di Jacques Audiard, che è per me uno dei cinque più bei film dell'anno, ma che hanno visto in Quattro Gatti. Non riesco proprio a capire perché, cioè, il potere del marketing, la seduzione del lancio pubblicitario ormai è infinitamente superiore al tantam invece cinefilo di una volta, sì, al parere degli amici, a quello appunto della critica. Non so, sono cose che muovono numeri piccolissimi, almeno in superficie, perché poi ci sarà tutto un consumo invisibile, clandestino, pirata di film scaricati, sul quale però non c'è controllo, quindi non sappiamo. Sicuramente ci sono film che escono in centinaia di copie, che rappresentano l'evento durante l'anno, anche con grossi battage pubblicitari, e ci sono i piccoli per cui funzionava una volta il passaparola, ma non è più così, la tenitura non è più tale da consentire il passaparola. Assolutamente, ma poi soprattutto c'è una crescente tendenza, mi sembra di vedere leggendo un po' i dati, del pubblico a scegliere non tanto il già noto, ma il finché hanno, come dire, un'immagine chiara, che si sa cos'è, che hanno un elemento di richiamo forte, che sia un attore, che sia un regista, che sia un tema, che sia un'immagine che è passata. Mentre c'è molto meno di una volta la disponibilità all'incontro col film anche strano, anche inaspettato, con l'autore spiazzante, la sorpresa, con reazioni anche di odio. Per esempio, un altro film, per dire, che insomma ha vinto nel consenso generale, almeno della critica, fra degli addetti ai lavori, ma dei giornalisti, di tutti, degli appassionati che erano a Venezia un anno fa, Il piccione seduto su un ramo. Sì. Ora io non so se il doppiaggio italiano, perché non l'ho rivisto doppiato, forse il doppiaggio italiano, come spesso accade, non lo so, lo dico al buio, quindi non me ne vogliano chi ha curato l'edizione italiana, magari è splendida, ma io mi auguro che lo scarsissimo successo del film sia invece dovuto anche a un adattamento che magari non rendeva giustizia appunto alla stranezza del film. Diciamo, ci sono dei film che anche perdono semplicemente, proprio che sono molto difficili da tradurre, no? Sì. Per cui il fatto stesso di fare parlare quei personaggi, dicono cose bizzarre in un mondo, in una cultura diversa dalla nostra, in italiano in realtà gli toglie gran parte del fascino. Quindi spero che... Però io ho sentito appunto spettatori anche non particolarmente ignari di cinema, inferociti, come se avessero visto un film irricevibile, incomprensibile, provocatorio. Quindi, insomma, è una strana commedia dell'assurdo che non aveva suscitato reazioni di questo tipo a me. Quindi, cioè, quello che registro quest'anno è un po' lo sconcerto, perché ripeto, di bei film ce ne sono ancora tanti, arrivare a 10 è un problema, non diciamo a 5, io ne avrei volentieri 20, 25 da citare come bei, bellissimi film, però appunto ci rivediamo un po' fra di noi ormai, questo è molto sconsolante. Bene, questo è il dato rispetto al 2015. A questo punto passiamo alla tua scelta, Fabio. Beh, uno l'abbiamo detto appunto, è Dipan di Jacques Audiard, che conferma la grandezza di un autore, secondo me aveva un po' inciampato col melodrammaticissimo, a tutti piace il melò, ma insomma non bisogna esagerare, Un sapore di ruggine ossa, che è il suo unico film che non mi ha convinto, insomma, invece con Dipan torna proprio grande, grandissimo. Fra l'altro è un film che risponde a mille domande, perché insomma è un film sulle periferie, sull'immigrazione, sulla guerra che è ovunque, che resta dentro i personaggi, che assume forme sempre diverse, ma che, come dire, viaggia per il mondo, perché un cingalese, ex guerrigliero, che fa la guerra degli spacciatori magrebini nelle periferie francesi, insomma c'è tutto, sembra scritto da un caporedattore di un giornale, contiene una tale quantità di grandi temi, e invece è un film pensato più di un anno fa, perché era pronto a Cannes a maggio 2015, insomma, è un film poderoso, eppure è anche lì che ha avuto un gradimento altissimo. Decine di amici che l'hanno visto mi hanno detto: Madonna, è un film pazzesco, però il pubblico non c'è andato, nonostante appunto un tasso, perché poi ci sono gli indici d'ascolto, ma bisognerebbe far tornare appunto ai vecchi indici di gradimento. Quello è un film che, se viene visto a 100 persone, piace a 90, però non basta. Bene, Dipan, l'altro è un film sempre abbastanza esotico, tra virgolette, ma sempre invece molto centrale, che è Timbuktu, del grande Sissako, fra l'altro un rarissimo caso di film africano che arriva in Italia, e questo ha avuto un po' più di passaparola, questo è stato un po' più a lungo in sala, ed è un film che conquista tutti per la bellezza, perché fra l'altro riesce a parlare appunto dell'orrore di questi anni, dell'integralismo, del jihad, della follia di questo ordine imposto in questa città appunto per noi remota e incomprensibile che è Timbuktu, ma senza cedere al ricatto dell'orrore. Insomma, il regista, essendo un grande appunto, non si piega ai ritmi, alla seduzione della violenza, insomma, fa tutt'altro, fa il suo film, insomma, sì, e fra l'altro mette anche in ridicolo questi guerriglieri in mille modi. È un film che poi oggi forse può sembrare un po' lunare, perché purtroppo, come dire, l'ISIS è andato avanti parecchio nell'ultimo anno su una strada di barbarie assoluta, però appunto bisogna anche rifiutare i mezzi di comunicazione che scelgono loro e imporre i nostri. In questo senso è anche un atto di resistenza estetica e politica molto forte. Timbuktu, quindi. Terzo film, sì. Sono tutti film di una sola parola, stranamente, Heimat 4, il quarto Heimat, perché Edgar Wright appunto è un progetto di lunghissimo corso, fra l'altro appunto non se ne può più di sentir dire le serie ormai sono più belle del cinema, le serie le ha inventate il cinema, le ha inventate il cinema muto addirittura, sono sempre esistite, le serie sono sempre fatte anche al cinema e hanno, come dire, radici spesso più forti e più interessanti di tanto, non di tutte per carità, è vero, ci sono serie televisive magnifiche, ma insomma c'era una serie bellissima al cinema che anche quella è stata vista in pochi, anche che poi se tu fai, in realtà non era una serie, questa si conteneva in due puntate se non ricordo male, insomma era solo un film molto lungo, ma appartiene a un progetto di lunghissima serialità che Wright porta avanti da più di 20 anni ormai, forse 30 addirittura, il primo Heimat credo fosse di fine anni 80 se non ricordo male, e ha esplorato zone diverse della storia, della memoria tedesca, qui poi c'è anche Il sogno dell'America, fortissimo, insomma, un grandissimo film. Un altro dei primi cinque è sicuramente Turner, il film di Mike Leigh sul pittore inglese, meraviglioso, sì. Come trattare l'arte al cinema, come sì, raccontare sì, una sì. Biografia d'artista anche con molta libertà, anche reinventandola, insomma, così appropriandosi con la libertà del poeta, del romanziere, insomma, di questa vita e di quest'opera. Film poderoso, e questo ha avuto un po' più di fortuna. Fortuna, Mike Leigh è un nome che ormai va abbastanza avanti, sì, sì, sì, sì, da sì. Solo l'ultimo dei cinque, ho scelto Taxi Teheran tra mille dubbi di Panahi, perché anche per il valore simbolico, insomma, è molto bello, è un film che riesce ad arrivare a volare molto alto con mezzi veramente minimi, perché insomma sono un personaggio, un taxi, due telecamerine fissate appunto dentro questo taxi, è un lavoro di messa in scena minuzioso, lui ricrea una realtà, ricrea un finto documentario, credo che sia tutto finto, insomma, quello che vediamo, ma tutto appunto con la verità dell'invenzione, della grande osservazione, ed è un gesto, uno sberleffo pazzesco ai censori che appunto gli impediscono di fare i suoi film, è forse il film più bello che ha fatto, a riprova ai noi che la censura alle volte va bene al cinema, l'inventiva. Sì, sì, sì, sì. Ma ne avrei potuti citare moltissimi altri, e questa era un'annata appunto come sempre ricca, perché appunto c'era il piccione svedese di cui parlavamo, c'era Foxcatcher, c'era Birdman, c'erano tanti film, c'era Incapace della mia amata Eleonora D'Angelo, un bellissimo film. Altro sì. Film, però diritto a un film italiano, giusto? Esattamente. Ecco, qui ti vorrei fare veramente il gioco della torre, perché mi è difficilissimo scegliere tra Mia madre di Nanni Moretti e l'ultimo purtroppo film di Caligari, Non essere cattivo. Quindi concedetemi un ex aequo, perché non voglio cedere al ricatto sentimentale per cui vince per forza Caligari, perché non c'è più e perché è stato una vittima di un sistema iniquo che gli ha praticamente impedito di fare cinema per 30 anni, perché 3 film in 30 anni è una vergogna, sì. Però non posso neanche dimenticarlo, e comunque Nanni Moretti ha fatto uno dei suoi film più belli, secondo me più maturi, poi è un film di grande cambiamento, di grande sensibilità, e non è affatto, come molti hanno detto o pensato, simile, non è per niente il solito Moretti, insomma, come qualcuno un po' volgarmente lo ha liquidato. Bene, noto che non c'è Hollywood, è curiosa questa. No, avrei tanto voluto mettere i film di Bogdanovic, avrei voluto mettere i film di Spielberg, avrei voluto mettere Foxcatcher. ma tanto li metteranno tutti gli altri. Bene. Non manca mai. Bene, complimenti Fabio. Non corriamo in soccorso del vincitore. No, esatto. Io ti abbraccio, è stato un piacere e poi ci aggiorneremo anche sui risultati poi, una volta sentiti anche gli altri. Certo. Un abbraccio e a presto. A presto, ciao Fabio. Federico, grazie. Ciao. Questo era Fabio Ferzetti e con questo chiudiamo la puntata, l'ultima puntata del 2015. Ci sentiamo giovedì prossimo 7 gennaio 2016 per la seconda e ultima parte delle cinquine con i cinque film del 2015, tra quelli usciti in sala preferiti ed amati da amici, da una serie di colleghi e amici critici cinematografici. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sull'home page del sito c'è Ascolta la diretta.